Pisa, sotto l'insegnamento di Delio Cantimori, l'ha ripreso adesso e ci propone il risultato delle sue ricerche sul tema della ricezione italiana del dibattito Las Casas Sepulveda sul tema guerra giusta. Sì, in realtà la cosa è molto più modesta, solo su alcuni aspetti della ricezione di questo tema, ma comunque non solo della ricezione di Las Casas Sepulveda, ma anche di quella di Vittoria. Probabilmente più che altro non parlo nel modo giusto, cioè dentro... più vicino, così. Così. Ecco, dicevo che la cosa è più modesta di come ha detto il professor Prosperi. Io ho seguito solo alcuni aspetti di questo, attraverso alcuni testi, alcuni autori di questo dibattito in Italia. E comunque non si tratta solo della ricezione di Sepulveda di Las Casas, ma anche di quella di Vittoria. Però rispetto, ma ripeto, in forma molto parziale. La discussione sulla conquista, cioè se sia stata guerra giusta o guerra ingiusta, quella con cui gli spagnoli si sono impadroniti del Nuovo Mondo, in Italia avviene attraverso il filtro del dibattito spagnolo nella seconda metà del Cinquecento e all'inizio del Seicento, fino verso gli anni 30, anche 40. Perlomeno questi sono i limiti cronologici che qui interessano, che io mi sono data. Verso la metà del secolo in Spagna tre posizioni sono in diverso modo paradigmatiche, appunto quella di Las Casas, di Sepúlveda e di Vittoria, come tutti sanno e come del resto ancora ricordava il professor Koenig questa mattina, insomma, per Las Casas, il protettore degli indios, la conquista è stata guerra ingiustissima, tirannica, diabolica, come dice lui. Per Sepúlveda, che è invece apologeta della conquista, autore di questo famoso dialogo Democrates alter sive de justis belli causis apud indos, è stata guerra giustissima. Di Vittoria in realtà si discute ancora se le due relecciones de indis prior e posterior, relectio de indis, l'altra nota come relectio de iure belli, pronunciate da lui all'Università di Salamanca nel 1539, e vadano lette in chiave di legittimazione o di condanna della conquista. Ci sono del resto su questo grande autore anche altre. Si discute anche se la posizione di Vittoria appartenga già al moderno diritto internazionale o se invece sia tutta dentro l'orizzonte del Medioevo cristiano. Vabbè, comunque sia, fuori di Spagna, mentre schierarsi per Las Casas o schierarsi per Sepúlveda connota sempre l'atteggiamento antispagnolo o filospagnolo, per un autore dello spessore di Vittoria non scatta a prima vista un meccanismo di questo tipo. Ora, di questi tre autori, il primo che entra in Italia è Sepúlveda, perché viene la sua apologia pro libro de justis belli causis. Il libro non aveva, era stata bloccata la pubblicazione in Spagna. La apologia pro libro de justis belli causis viene stampata, come è noto, a Roma nel 1550 per interessamento di Antonio Agustin, spagnolo e amico di Sepúlveda, che è uditore della Sacra Rota e che in questo modo garantisce una circolazione italiana della posizione di Sepúlveda. E quindi nel 50, molto prima, parecchio prima che entrino in Italia, la brevissima relazione della destruzione della Sindias e l'altro gruppo di Trattatelli di Las Casas, stampati a Siviglia nel 1552, sono le uniche opere di Siviglia di Las Casas stampate durante la sua vita e per lungo tempo, che poi dilagheranno, come si sa, per tutta Europa. Uno di questi trattatelli è appunto quello intitolato a chi se contiene una disputa o controversia entra eccetera, insomma il resoconto della controversia di Valladolid nel 1550 fra Las Casas e Sepúlveda, per brevità chiamato disputa. E quindi Sepúlveda entra prima di Las Casas in Italia e anche prima che ci arrivino le relazioni di Vittoria. Di Vittoria arriva presto la fama e tardi, relativamente tardi, la conoscenza diretta, cosa che non stupisce perché per parecchio tempo la circolazione di Vittoria resta un fatto interno, resta manoscritta e un fatto interno agli ambienti domenicani spagnoli essenzialmente. Si sa che Carlo V lo aveva in grande considerazione, lo consultava spesso, eccetera, però dopo le due reelecciones manda una lettera con cui al priore del convento di Sant'Esteban de Salamanca dicendo che basta, che questo si deve astenere dal entrare nel merito dei diritti spagnoli sulle Indie. E infatti la prima edizione delle reelecciones di Vittoria, tutte e 13, cioè le due dei Indies e le altre, è fatta a Lione da Jacques Boyer nel 1557 e a Salamanca l'edizione salamantina, che per lungo tempo resta, lunghissimo tempo resta l'unica, poi fino al 700 non lo pubblicano più, è del 1565 e per cura degli stessi domenicani, dei suoi confratelli. In realtà al momento di questa edizione ormai il discorso di Las Casas sulla conquista non preoccupava più il potere spagnolo, essenzialmente perché le grandi guerre di conquista erano finite. Quale fosse a suo tempo la posizione di Vittoria su queste guerre è noto attraverso questa sua lettera famosa del 34 al confratello e amico, lettera privata naturalmente, al confratello e amico Miguel de Arcos, dove espressa una condanna durissima dei peruleros. Era il momento della conquista del Perù, era rientrato il domenicano Vicente de Valverde, che era quello che era andato con Pizarro, ed è quella di Vittoria una condanna nettissima della ingiustizia di questa guerra. Poi però invece nel 39, nelle due reelecciones, nella reelección de Indies, dopo aver indicato i titoli illegittimi, Vittoria indica anche, sempre in linea teorica, con un discorso tutto costruito in forma ipotetica, che potrebbero ipoteticamente essere dei legittimi titoli. Ora, dopo il 60, di fatto per i funzionari spagnoli si tratta solo di dire che queste condizioni ipoteticamente previste sussistevano e tuttora sussistono, e visto che i titoli illegittimi che Vittoria ricorda, sia il potere universale del Papa, l'imperatore, anche la non umanità degli Indios naturalmente, ma insomma la critica alla dottrina dei canonisti come l'Ostiense in particolare, Vittoria va molto meglio, si presta certo molto meglio dei canonisti come l'Ostiense a legittimare l'impero coloniale di una grande potenza cattolica che non intende subire condizionamenti dal Papa. Per questa stessa ragione invece quando arriva a Roma Vittoria suscita diffidenza e comunque appunto quando arriva a essere riconosciuto, ma ci arriva relativamente tardi. Per per esempio, a un anno dalla pubblicazione, dall'edizione lionese delle Relecciones, un anno dopo, nel 1558, sembra non conoscere Vittoria, un giurista autorevole, dotto come Marquardo de Susannis, personaggio molto vicino a Paolo IV, a cui è dedicato questo suo trattato noto, De Iudeis Talis Infidelibus, che poi ha molte ristampe, molta fortuna, insomma fa opinione. Nell'edizione del 58 Vittoria non è proprio nominato, mentre invece Marquardo ha grande considerazione per Sepulveda, che riassume, appunto, ha letto la apologia e appunto nel capitolo Utrum bella per Hispanos mota contra barbaros cosindos vocamus guerintiusta et deorum coazione ad fidem catholica, lui risponde naturalmente affermativamente alla questio sulla scorta di Sepulveda, di cui riassume l'apologia con grande considerazione e porta i famosi soliti quattro argomenti di Sepulveda, che insomma a tutti noti: gli indios sono schiavi per natura nel senso aristotelico, Aristotele, la politica dal termine, sono peccatori contro natura e idolatri, bisogna salvare le vittime dei sacrifici umani e infine bisogna dilatare la fede cattolica. E Marquardo de Susannis qui sembra, insomma, condivide con Sepulveda un ibrido dottrinale un po' incongruo, perché appunto che è questo abbinamento che da un lato il rilancio della dottrina dell'Ostiense e dall'altro invece Sepulveda una lettura non tomistica ma laica e naturalistica di Aristotele. A dire la verità, nel Democrate Salter, che nel libro scritto in Spagna, questo precario equilibrio è spostato in favore di Aristotele, e invece nella apologia scritta per l'ambiente romano è piuttosto riaggiustato, riequilibrato nella direzione dell'Ostiense, e questo probabilmente soddisfa Marquardo, appunto un personaggio vicino a Paolo IV, in Bentico Realisti. E comunque lui non ha proprio niente, nessuna problema a recepire invece anche l'idea che gli indios, per tardita sinesita, sono in natura servi di Aristotele. E questa idea degli indiani, che è diffusa negli ambienti laici, per esempio del patriziato veneto, la Federica Ambrosini nel suo libro Paesi e mari ignoti ne ha parlato, ha fatto vedere perché queste posizioni, però ecco, va benissimo anche poi a Marquardo e poi ai censori curialisti, che rivedranno le successive edizioni, perché dei Iudeis, come ho detto, ce ne sono molte, e dalla prima alle altre ci sono alcuni cambiamenti significativi per il tema che ci interessa, cioè l'attesamento verso i barbari, gli indios. Non mi occupo del problema degli ebrei, il libro è stato studiato sotto questo profilo da Kenneth Stowe, che non nota particolari differenze fra le varie edizioni, però per quel che riguarda i popoli del Nuovo Mondo invece ce ne sono. Sempre restando a questo autore, che è un autore molto letto, quindi la sua posizione mi sembra significativa, di Las Casas non fa parola, questo non né nella prima edizione né in quelle successive, in cui invece, come dirò, Vittoria compare. Vabbè, questo di per sé non significa niente, perché vista l'abissale differenza fra le posizioni, della sua posizione e quella di Las Casas, potrebbe non nominarlo per quello. Poi, ripeto, nel 58 in Italia poco noto è. Però neanche in quelle successive, ma non lo nomina. Ma insomma, il fatto è che nella seconda metà del Cinquecento, in assoluto, conoscenza di Las Casas non ce n'è, è scarsissima. Riferimenti indiretti, ma una conoscenza un po' precisa delle sue posizioni non sembra, ecco, risultare. Naturalmente queste sue operette, questi suoi opuscoli poi circolano, si sa che probabilmente in Italia arrivano un po' tardi, si sa che Las Casas inoltrò questi trattatelli nelle Indie e poi lì facilmente, insomma, entravano in possesso di fiamminghi inglesi, francesi, olandesi, e poi dilagarono per tutta Europa già nella lingua originale prima di essere poi tradotte, perché dal 78 poi cominciano a essere tradotte. La prima è una traduzione francese, ma insomma fiamminga di Anversa, poi si sa che ne esistono, se ne conoscono 78 edizioni dappertutto. Probabilmente in Italia arrivano più tardi, però certamente arrivano, perché vabbè, in tutte le biblioteche italiane se ne trova, di quelli nella lingua originale, cioè quelle delle edizioni di Siviglia del 52. L'Ambrosini ha documentato in ambiente veneziano la presenza di questi testi in biblioteche di patrizi veneziani, però quasi sempre per il 600, un caso nel 500. Insomma, certamente c'era chi le leggeva, però il riferimento, una conoscenza della disputa sulla guerra giusta di questo testo pare, insomma, riscontrabile per la prima volta in un testo di Alvise Lollini, che la Ambrosini, già da me citata, riassume, e siamo all'inizio del 600. Nel 500 il riferimento più preciso a Las Casas che si sappia, alla sua opera, alla sua posizione, non alla sua esistenza. Sulla sua esistenza ci sono alcune inesatte notizie qua e là in altri. È questo testo inedito, come poi resta inedito anche quello dell'Ollini del 600 di cui parlavo, di Minuccio Minucci, vescovo di Zara, quello dell'autore della guerra, della storia degli Uscocchi, che è del 1595, è scritto a Roma, anzi in Capranicensi Recessu. E però la conoscenza di Las Casas che ne emerge è molto confusa. Intanto lui non ha letto il testo della disputa, ma la brevissima, come si evince da certi riscontri formali, si vede. E poi, mentre nella disputa, nel testo, appunto, a chi si contiene la disputa, naturalmente il discorso, Las Casas si insiste sulla razionalità e sulla poesia degli indios, perché non sono in natura servi. Minucci legge quel che ha letto, seppure l'ha letta tutta, io non sono degli excerpta, la brevissima, intendendo la brevissima relazione della destruzione della Silvia, se lo dico così scorciato, lo legge, legge, diciamo, la mansuetudine attribuita agli indios da Las Casas come animalesca, non come simplicitatem et stupiditatem mirabilem, insomma. Gli altri dicono la ferocia, lui dice la semplicità, ma sempre animalesca è. Poi del problema della guerra giusta non si interessa proprio. Ricorda che questo Las Casas ha deplorato la ferocia degli spagnoli contro gli indios. Sì, ricorda anche, insomma, esprime come dire, compassione, gli indios dati in pasta ai cani, però poi sostanzialmente a lui interessa esalta Cortés e Pizarro, poi è convinto della missione provvidenziale della Spagna. Insomma, l'Ascasiano proprio non è, ecco, non c'è. Ma la fonte sua è convinto della missione provvidenziale della Spagna, perché la sua fonte principale poi è a Costa, ecco. Ma in realtà evita qualunque coinvolgimento nel dibattito sulla conquista. Anche il primo autore che fa una biografia abbastanza informata, anche se agiografica e ampia, è di Las Casas, che è invece un domenicano, Michele Pio, un domenicano bolognese, nella seconda parte delle sue Vite degli uomini illustri di San Domenico. E lui ha per fonte la biografia lascasiana di Agustín Dávila Padilla, che è questo storico dell'ordine domenicano in Nuova Spagna, in Messico. Lui vescovo di Santo Domingo, domenicano, storico dell'ordine. Questa sua storia esce nel 95 ed è fatta per biografie, e Pio semplicemente riprende, traduce la biografia di Dávila Padilla, la biografia lascasiana di Dávila Padilla, e che è fatta con inserimento di lunghi stralci della brevissima. Solo che ci fa, ecco, diciamo, mentre nella biografia lascasiana di Dávila Padilla, in tutte le altre, insomma, l'eco della protesta dei suoi confratelli contro la violenza dei conquistadores è molto forte, invece in Pio diventa un'eco sbiadita. E poi lui proprio taglia, elimina tutte le parti che riguardano, che entrano nel tema della guerra giusta o ingiusta, e anche addirittura dell'evangelizzazione disarmata. C'è un pezzo lungo nella storia di Dávila Padilla, e qui lui celebra la vittoria della tesi di Sepúlveda, di Las Casas su quella di Sepúlveda, e dice che questi, Sepúlveda e i suoi sostenitori, sono gente che col pretesto di illuminare, servire i sovrani, in realtà li ingannano e insegnano loro questa, che le armi sono necessarie per la propagazione della fede, per difendere i missionari che sennò sarebbero massacrati. E lui dice: essa è la glossa che il demonio compone per essa falsedad. E Pio taglia tutta questa parte e invece sostituisce una lode dei buoni spagnoli, perché gli eccessi di alcuni non devono andare a pregiudizio di tutta questa così onorata nazione che ha tanti meriti davanti a Dio, eccetera. Ciò nonostante, poi questo testo di Pio viene subito utilizzato lo stesso, questa biografia lascasiana di Pio, in chiave di propaganda antispagnola, appena un paio d'anni, questo è del 13, già nel 18, da questo Valerio Fulvio Savoiano, che è uno pseudonimo poi di Giacomo Castellani, che è quello che pochi anni dopo poi traduce quattro di questi testi lascasiani a Venezia per Ginami. Savoiano Castellani all'epoca è già, ha già al suo attivo molti testi polemici, in prosa, in versi, di tipo, insomma, polemici anti-spagnoli, anticoriali, e così sul filone sarpiano, insomma. E quindi si ha, poi tradurrà nel 26 e uscirà la brevissima nella sua traduzione da Ginami a Venezia. Insomma, questo è poi il periodo, come ormai negli ultimi tempi è stato detto molte volte, della maggiore fortuna italiana di Las Casas a Venezia. In questo arco di tempo si esaurisce prima della fine della guerra dei trent'anni. E anche a guardare giudicare dalle iniziative di editoriali, coincide anche con una certa fortuna di vittoria, perché anche Vittoria viene stampato, le reelezioni vengono stampate nel 26, è la prima edizione che se ne faccia in Italia da Pinelli, e poi ce n'è un'altra nel 40. Questa è un'analogia superficiale naturalmente, perché Las Casas, come ho detto, risulta pressoché ignoto nella seconda metà del Cinquecento, mentre Vittoria è ricordato come autore molto autorevole, naturalmente tenuto in grande considerazione. Però così fa anche, gli tributa molta considerazione, per tornare a lui, Marquardo de Susannis nella seconda edizione del suo De Iudeis, riveduta e ampliata, in cui lo spazio dedicato ai popoli del Nuovo Mondo è maggiore. E allora lì, in quel capitolo sulla conquista di cui parlavo prima, allora lì colma la lacuna, Vittoria compare, dice su questo tema, Vittoria, grandissimo teologo spagnolo, ha scritto cose degne della massima considerazione, e basta, sembra che non dica altro, che sia d'accordo, che sarebbe assurdo perché la sua posizione è tutt'altra, ma invece sono in altri capitoli, e invece lui in altri punti del testo invece attacca proprio Vittoria sul tema centrale poi del discorso di Vittoria, cioè la legittimità delle signorie indigene, e invece lui dice no, che non, secondo Marquardo non ci sono presso gli infedeli legittime giurisdizioni, come dice l'Ostiense, e quindi non ce n'erano nel Nuovo Mondo prima della conquista, e quindi sbaglia Vittoria, che dice che c'erano. In questa seconda edizione di questo trattato dei De Susannis ci sono anche altre aggiunte. Per esempio c'è un altro capitolo, Bellum Licitum contra Saracenos, che diventa tutta un'altra cosa da quel che il titolo dice, perché si prolunga, c'è una lunga coda in cui invece che è una lunga dissertazione sulle guerre intercristianos et barbaros infideles, cioè gli indios con i quali nella guerra si deve essere durissimi, perché la equitas che funziona fra cristiani non può essere applicata a loro, per loro ci vuole il rigor iuris, e quindi tutte le conseguenze più pesanti della guerra, trattati in virga ferrea, non hanno nessun diritto, quindi non valgono per loro gli us postumini, la lex Cornelia sulla schiavitù si applica in tutto il suo rigore, e sono francamente schiavista, vanno fatti schiavi. E dato che fra loro non ci sono legittime, sono indegni di ogni giurisdizione, e così via. Poi nella terza edizione, quando Marquardo è già morto, perché lui muore nel 78, c'è una terza edizione di questo trattato nell'84 che esce nel 14° volume di questo monumentale Tractatus Universi Iuris, pubblicato sotto gli auspici di Gregorio XIII. Allora lì ci sono alcune altre varianti significative, non che naturalmente facciano violenza al pensiero originario di Marquardo, perché fin dal prologo del 58 per lui gli infedeli abbracciano insieme eretici, ebrei, pagani, cioè la classica distinzione dei difensori degli indios, che agli infedeli non sono paragonabili agli eretici. Invece, la sua posizione è simile a quella di Alfonso De Castro nel De Justa Hereticorum Punizione, che infatti è citatissimo anche da Sepúlveda e da lui. Beh, insomma, queste. Ciò nonostante, nell'edizione del 58 e ancora in quella del 68, lui in questo capitolo Bellum contra Saracenos riportava la tesi, che evidentemente la posizione che evidentemente considera ancora autorevole, e che la guerra contro i saraceni è una guerra diversa da quelle contro tutti gli altri, non equiparabile a quella contro gli altri infedeli, perché i saraceni tengono occupate terre cristiane, allora in questo caso Gerusalemme è terra romana e cristiana, e allora in questo caso sì, si può fare guerra tout court, ma se no agli altri infedeli non si può fare, non è lecita contro gli altri infedeli la guerra così tout court, se non violano, insomma, se non c'è una iniuria, se non impediscono il commercio, la comunicazione, eccetera, insomma offendono i cristiani. Allora era rimasto questo pezzo, che invece con un economico emendamento, evidentemente i censori nell'84 cambiano, ce ne sono diversi di questi cambiamenti, ma ne dico uno tanto per così perché è carino. Lui diceva, notatamen circa bellum contra infideles indicendum, quod non potest contra eos simpliciter indici qui infideles sint et ut fiant cristiani, eccetera eccetera, sed ex certis et legitimis causis. Allora il nota diventa non nella correzione, l'indicendum diventa dicendum, e la frase quindi si rovescia, no? Non tamen dicendum est quod non potest indici, ma invece cade ogni sì, bellino, un emendamento proprio bello economico che non fa lavorare i tipografi, ce ne sono altri due o tre dello stesso tipo. E quindi niente, cade qui ogni possibile riserva, evidentemente, sulla giustizia della guerra nel nuovo mondo, che qui continua a chiamarsi bellum, guerra, mentre invece poi, dopo un po' di anni, da un certo punto in là, come dirò, si assiste poi a un significativo cambiamento di terminologia. In realtà queste modifiche progressivamente apportate al testo di Marquardo De Susannis in tema di guerra e in tema di giurisdizione degli infedeli anticipano una condanna delle posizioni di Vittoria, che diventa poi ufficiale di lì a poco nell'indice di Sisto V. In questa vicenda dell'indice di Sisto V, pubblicato però poi non messo in circolazione per le perplessità della commissione stessa che l'aveva composto, fino a che poi è morto Sisto V, viene quello di insomma, non se ne fa più di niente. La vicenda è nota soprattutto per il caso di Bellarmino, di cui ci fu inserito il De Romano Pontifice, e a Vittoria succede esattamente la stessa cosa. All'epoca ormai Vittoria in Spagna invece è una specie di quasi ideologo ufficiale, quindi gli spagnoli sono seccatissimi, e allora anzi Filippo II cerca di evitare la cosa, c'è l'ambasciatore di Spagna a Roma, l'Olivares, cerca di evitare, ma niente, Sisto V ce lo fa mettere. Poi morto Sisto V, nell'indice di Clemente VIII non ci sono più né Bellarmino né Vittoria. Ecco, però l'impressione mia è come che Vittoria resti in una specie di limbo, molto autorevole, però poi non se ne parla. Ecco, sono ben diversamente noti e citati i suoi discepoli, Soto in particolare, Cano, anche se magari su altri temi più che su quelli della guerra, che in ambito domenicano non, insomma, nessuno anteporrebbe al maestro. Lo stesso Bellarmino nel De Romano Pontifice, dove parla della giurisdizione, il problema della giurisdizione degli infedeli, perché ne parla, e tutto sommato esprimendo con circospezione una posizione molto simile a quella di Vittoria, però non lo rammenta, non lo cita proprio, non lo cita neanche in quei due capitoli che ha sulla... Vero è che lì non parla della guerra nel Nuovo Mondo, Io lo cito solo fra i insieme al Caetano, a Medina, a Soto, fra gli autorevoli domenicani che sostengono la dottrina del potere indiretto. Ma Possevino non nomina Vittoria nella Biblioteca Selecta, libro nono, i capitoli De gentibus sacre cinque indis novi orbis, eccetera, in cui dipende puntualmente da Acosta, ripete, ma proprio Vittoria non lo nomina nemmeno. Non lo nomina, non lo mette nemmeno nel De jurisprudentia fra i giuristi, che non è che ci metta solo quelli civilisti, perché Soto c'è, Vittoria no. Compare solo fra i maestri, Possevino lo mette solo fra i maestri che si sono occupati dei casi di coscienza con la Summa Sacramentorum. Queste lezioni di Vittoria, che poi non è il testo delle lezioni di Vittoria steso dal suo alunno Tomás de Chaves, che appunto prima della fine del Cinquecento c'ha una quarantina di edizioni, anche in Italia ne ha tante, mentre insomma, le relezioni se ne hanno pochi. In Italia nessuna, ma anche a giro, insomma, poche. Il confronto con la fortuna della Somma Sacramentorum è impressionante. E, niente, lo rammenta nell'apparatus sacer, sì, lo rammenta, ma rammenta anche le relezioni, ma poi sembra confonderle, in realtà equivoca, lo confonde con la Summa Sacramentorum, per dire. Botero neanche, Botero nella quarta parte delle relazioni universali si limita a dire che Vittoria, come Acosta, ha scritto sul tema della onesta forza, se è il caso di usare la onesta forza contro gli indios, che è la nuova terminologia, la terminologia di Acosta e che Botero anche usa. E poi non dice, su questo ha scritto dottamente, ma non dice mica cosa ha scritto, e siccome lo mette insieme a Acosta, lascia come pensare al lettore che sia sulla stessa posizione di Acosta, Vittoria, che poi la posizione che lui, Botero, fa propria, anche se con qualche variante. Insomma, l'impressione che ho avuto io è che Vittoria sembri molto più famoso che conosciuto e che fuori degli ambienti domenicani sia una presenza molto in sordina. Ora, questo non è certamente che avvenga per il fatto che Vittoria dice che l'infedeltà non è giusta causa di guerra, perché questa poi è formalmente la tesi vincente, invece. Non è che quella ruzza di Marquardo de Susanni sia formalmente quella vincente. La tesi vincente è che la coazione attraverso la guerra per la conversione non va bene. E questa anche Acosta dice che non è lecito usare la guerra per propter infidelitatem etiam pertinacem, e puntualmente lo ripete Botero prendendolo da lui. Solo che ecco, il fatto è che per loro, Acosta come Botero, è che gli barbari infedeli restano comunque oggetto di decisione, chi decide è la Chiesa, che ha questo potere di intervento eccezionale. E allora così cosa succede? Che la parola guerra si leva. Non si parla più di guerra, invece di onesta forza, che è necessario usare quando questi insomma sono troppo barbari, eccetera, eccetera. Ora, insomma, la guerra si distingue ingiusta o ingiusta, e quindi se ne può discutere, e poi, insomma, per pesanti che siano le conseguenze per il vinto, In una guerra giusta si può sempre sollevare dei dubbi, e Vittoria li sollevava, ne sollevava moltissimi, e sulla giustizia della guerra e su fin dove ci si possa spingere poi in una guerra giusta, quando si è vittorioso in una guerra giusta. Invece la onesta forza, come dice Botero, è spediente. Basta, insomma, in questo modo, con questo cambiamento di terminologia, diciamo che il dibattito è chiuso, la questione della giustizia o meno della guerra è liquidata, e quindi poi si è di fatto lontanissimi dalla posizione di Vittoria, che infatti Acosta non rammenta mai e che Botero assimila in questo modo surrettiziamente quando lo nomina a Acosta. Insomma, si è lontanissimi, perché per Vittoria gli altri, questi altri, sono soggetti con i quali si deve trattare all'interno di delle regole comuni a tutti i popoli, indipendentemente dalla fede. Questo, ecco, penso che sì, questa evidentemente è un'idea che non può passare nella coscienza del tempo. Ora, dire che Vittoria, io non voglio dire che Vittoria sia ignorato, dire che Vittoria sia ignorato sarebbe gravemente inesatto. Un esempio, per esempio, lo conosce bene, sembra ha fatto una lettura puntuale, ne ha una conoscenza precisa, Rutilio Benzoni, vescovo di Loreto e Recanati, però lo appiattisce a pura casistica. Poi c'è un altro versante su quello di Sarpi, allora evidentemente di Vittoria fortuna la lettura anticuriale. Per dire del primo, di Rutilio Benzoni affronta proprio il problema della guerra giusta nel terzo libro di questo suo trattato De Fuga, quindi nel libro De Fuga in Bello, poi a un certo punto parla della guerra giusta e della guerra contro gli eretici e gli infedeli. Allora lui lì tiene ben ferma la distinzione tra eretici e infedeli, polemizza contro Alfonso di Castro, si schiera con Vittoria, non è lecita la guerra contro gli infedeli per l'infedeltà, hanno le legittime giurisdizioni, si può far guerra solo se, come dice Vittoria, rifiutano di lasciar predicare, massacrano i predicatori, impediscono, insomma, segue puntualmente, se le ragioni principali sono se massacrano i predicatori, se vogliono costringere i convertiti a abbandonare la vera fede e così via. E anche questo, ecco, si alia sfieri non potest, gli si fa, ecco, anche su quello ripete con Vittoria, insomma, ultimo estremo rimedio. Solo che, ecco, questa precisazione poi in realtà ha un valore abbastanza formale, come dire, l'adesione di Rutilio alle posizioni di Vittoria rimane superficiale e esterna, perché ci manca tutto un altro pezzo di discorso, cioè in Vittoria intanto c'è questa forza delle costruzioni ipotetiche sui titoli legittimi. Può essere che è fortissimo, insomma, questo dire, ma io nell'ipotesi che, allora, e poi questo nella prima relectio, no? Nella seconda parte della prima relectio, dove dice i titoli legittimi e dove effettivamente dice, certo, se questi vogliono, impediscono la predicazione eccetera, gli si deve fare guerra. Poi nella seconda, nella De Jure Belli, nell'ultima parte della De Jure Belli, tutti i dubbi sul quantum licet in bello giusto, di fatto, insomma, Vittoria ritiene che anche ai barbari si applichi la equitas, degli indios parla, idea che, no, invece no, Benzoni non passa nemmeno per l'anticamera del cervello, mi pare. E quindi tutto sommato questa ambigua complessità, che poi è ambiguo Vittoria, ma insomma questa ambigua complessità di Vittoria si, si appiattisce a casistica, ecco, in questo che pure lo ha letto attentamente, si dice d'accordo con lui. Vabbè, poi c'è una fortuna di Vittoria su un altro versante, quello di Sarpi. A Sarpi piace Vittoria, anche se pare non conoscerlo bene, perché per esempio dice che, in particolare dice, familiare teologo di Filippo II, sembra ritenerlo più recente di Soto, che invece correttamente è indicato come confessore di Carlo V. Ma vabbè, questo non importa. Lui da tante parti, ma insomma in particolare nella scrittura sulla scomunica, sopra la forza e la validità della scomunica, dice, cita Vittoria, proprio dice, nessuno ha parlato chiaro come lui, però a lui interessa il De Potestate Ecclesiae, non si occupa degli scritti indiani. Poi sulla scia di Sarpi c'è una fortuna invece di Vittoria, appunto, negli ambienti dei polemisti anticuriali. Questo Savoiano, Castellani, diversi opuscoli, vabbè, poi se siano suoi o non siano suoi, siccome sono pseudonimi, anonimi, non so mai, si può mai dire se veramente sono di uno o di un altro, ma insomma l'ambiente è quello. Allora, lì invece il riferimento è al Vittoria delle Relectiones, solo che sembra... E quindi viene molto ribadito, molto insistito, il tema delle legittime giurisdizioni indigene che sono state usurpate tirannicamente dagli spagnoli e così via. Solo che è un interesse strumentale, insomma, perché la tirannide degli spagnoli nelle Indie, per parlare della tirannide degli spagnoli in Italia, ecco. Poi c'è questa, e quindi c'è questa circolazione di questo tipo che non... D'altra parte, se in Italia Vittoria circola soprattutto fra, sembra a me, insomma, per quello che io ho verificato, fra i polemisti anticuriali, e poi c'è caso che in ambiente protestante invece passi per un polemista antiluterano, perché per via della terza edizione che ne fu fatta, quella di Ingolstadt del 1580, che scaccia e cancella le prime due, quella lionese e quella salamantina, dopo la rifanno a Lione, ma su quella di Ingolstadt, tutte quelle successive, anche le due veneziane, dipendono da quella di Ingolstadt, e allora lì ci sono questi lunghi mesi, questi lunghi titoli riassuntivi, così che qui a prima vista le relazioni vengono riverniciate da scritti di propaganda antiluterana. E comunque, insomma, questa situazione non favorisce, ecco, su nessuno dei due versanti, mi pare, una conoscenza del pensiero di Vittoria, insomma, non lo avvantaggia, ecco. E comunque ne viene, insomma, ignorato l'aspetto più originale, il fatto che al momento dell'occupazione territoriale del Nuovo Mondo lui abbia pensato, insomma, i rapporti fra spagnoli e fra cristiani e infedeli, fra spagnoli, europei e indiani, in termini di relativa reciprocità. Ecco. Per aggiungere, chi ha letto, chi discute le posizioni di Vittoria, per quelle che sono, è un italiano fuori d'Italia e protestante sui generis, che è Alberico Gentile. Alberico Gentile si dice d'accordo con Vittoria su una cosa sola, la non validità del mandato di missione come motivo di guerra. E poi per tutto il resto... poi invece condivide, lo dice esplicitamente, senza farne il nome, la posizione di Sepúlveda, ne condivide gli argomenti, non quattro, tre, cioè i tre argomenti, quelli laici, e non quello della propagazione della fede, su quale, come si sa su queste cose, ora poi che è tornato di moda dopo la pubblicazione in Italia recente del libro di Carl Schmitt, si lede teologi in un realieno, ma invece le prime, la guerra, insomma, degli spagnoli era giusta, e perché era la causa della civiltà contro la barbarie, ecco. avrei finito. Ringraziamo Carla Forti per questa relazione che è stata suscita e ha posto molti problemi. Questo ci consente una pausa, forse meno lauta del solito, ma direi che sia alle 4:20 possiamo ricominciare, cioè essere qui intorno alle 4:15, e potremmo avere una buona discussione. Domani pomeriggio posso andare? Il pomeriggio è libero, ecco, e sono predisposte però due... Ci ha dato, non so se vuoi farlo tu forse che... Ma questo non ho... Sì. Pareva che qualcuno avesse... sì, sì, forse, giustamente, ora forse sbaglio. Io faccio l'insegnante liceale, allora la mia abitudine è a essere didattica anche troppo, si vede che ho ipercorretto. Allora, cioè, forse devo spiegare, Las Casas, Bartolomé de Las Casas, questo domenicano che ha dedicato tutta la vita, quasi tutta la lunga vita, nasce nel 1474, secondo le ultime teorie, perché prima si credeva nel 64, muore nel 1566, va, la famiglia conosceva Colombo, suo padre è andato nel secondo viaggio di Colombo, Las Casas è anche quello che ci ha lasciato, l'unico testo, anche se non è propriamente l'originale, del diario di bordo di Colombo, è noto agli studiosi di Colombo se non altro per questo, e va a 18 anni con Ovando nel 1503 a Hispaniola come soldato e cercatore d'oro, poi si fa clerico, poi ha un'encomienda e una prima conversione con cui abbandona l'encomienda, si trasforma in protettore degli indios con il vecchio Ferdinando il Cattolico che va in Spagna per parlargli, Ferdinando il Cattolico muore subito dopo, comincia una serie di iniziative in difesa degli indios, che ora non sto a dire, in un episodio famoso c'è questo tentativo di colonizzazione pacifica sulla terra firme, sulla costa di Cumaná, i missionari protetti dalle soldati che però non devono intervenire, che finisce tragicamente, lui si entra in convento, si fa domenicano, questo è nel 22, questa è diciamo la seconda delle conversioni, dopo un periodo nel convento domenicano di Puerto de Plata all'Hispaniola, ricomincia la sua attività, allora poi lo troviamo in Messico, in Guatemala, eccetera, c'è la famosa esperienza della Vera Paz, la colonizzazione. L'episodio culminante però più noto è dopo il suo definitivo ritorno in Spagna che è nel 1447, era stato fatto vescovo di Chiapas, torna si sforza di fare eseguire, di fare rispettare le cosiddette leyes nuevas del 1542, questa grande svolta nella legislazione di Carlo V sulle Indie, che sembra poi non è vero, ma por fine al regime dell'encomienda, che è questa cessione degli indios perché lavorino a privati, è una serie di leggi di tutela dell'indios che qualche traccia hanno lasciato, che sollevano una fortissima reazione fra i conquistadores. Lui come vescovo c'è un periodo molto battagliero, poi torna in Spagna a continuare questa lotta in Spagna, mentre Sepúlveda è nello stesso periodo l'ideologo, il sostenitore della causa di encomenderos e conquistadores, e quindi scrive questo dialogo. Allora Democrate Salter de Justis, causis, belli causis apudindos, che viene bloccato probabilmente per l'intervento di Las Casas, ma non solo per questo. C'è questo famoso episodio di questa controversia di Valladolid nel 1550, dove davanti al Consiglio delle Indie a teologi e letrados nominati da Carlo V i due dibattono questa cosa. Comunque il libro di Sepúlveda non fu mai pubblicato. Las Casas è arrivato, nonostante l'audacia delle sue posizioni, che non si può far guerra in nessun modo, nemmeno se quelli non lasciano predicare, perché questo è anche questa occasione, ma però vado veramente fuori tema. Comunque nel 50, a questa disputa, cioè tra il 50 e il 51, fra le posizioni insomma più audaci di Las Casas, c'è il dire che vabbè, anche se questi sacrificano esseri umani ai loro dei, credono di far bene, quindi chi dice che questo sia contro la legge naturale? Comunque Dio li giudicherà, noi non li possiamo giudicare. E poi se questi, mentre la posizione di Vittoria nelle elecciones è non gli si può far guerra per la fede, però devono lasciar predicare, perché la predicazione poi in fondo è il commercio materiale e spirituale, la predicazione fa parte di questo, altrimenti è iniuri, allora si fa guerra, non propter infidelitatem, però propter ignoriam acceptam, allora sì. E lui, insomma, alla scala non vale anche questo, dice: non ci vogliono, se tu d'accordo, non ci vogliono lasciar predicare, non ci lasciano predicare. E comunque Las Casas non fu condannato mai per queste sue, aveva un grosso prestigio, ha campato fino al 1566 senza, sempre mantenendo il suo prestigio, scrivendo, parlando, essendo membro consulente del Consiglio delle Indie, mentre il libro di Sepúlveda non fu pubblicato mai, non fu pubblicato. Non è una cosa però, non solo una vittoria di Las Casas, perché in realtà Carlo V, cioè niente si doveva pubblicare che toccasse questo tema. C'è poi una, ecco, nel 57 c'è una real sedula in questo tema, probabilmente forse indotta dal fatto che invece Las Casas non solo, ma nel 52 lui aveva pubblicato e diffuso. C'è questa real sedula che impedisce da allora in poi, tutti i libri di argomento indiano hanno, non so, quelli di Acosta per esempio, se uno guarda l'edizione del De Orbe Novo e del De Procuranda, che sono i primi due libri, no? Ancora in latino, della storia naturale e morale, e c'è tutto lungo segretario, la cosa del re, il segretario che controfirma, eccetera. Cioè pubblicare su questioni indiane era ci voleva l'autorizzazione esplicita del re, così, perché sono da quello. Boh. Sepúlveda è un sostenitore. Sepúlveda è noto poi in realtà mica solo per la sua polemica sulla guerra giusta. Sepúlveda è un grosso umanista, filologo, traduttore di Aristotele, un prototipo proprio di spagnolo italianizzante del Rinascimento, molto noto ai filologi. Lui ha passato più di 20 anni in Italia, ci è venuto nel 15, è stato al Collegio Albornoz a Bologna, è allievo di Pomponazzi, le sue traduzioni di Aristotele sono importanti, Erasmo lo stima, benché lui polemizzi sul piano filologico. Lui, vabbè, comunque la sua difesa, stando a Roma, lui in questo lungo periodo, nella prima fase del conflitto franco-imperiale, lui da Bologna, poi dove è allievo di Pomponazzi, poi si sposta a Roma, molto ben visto da Clemente VII, quindi lui segue la prima fase del conflitto franco-imperiale molto più come romano che come imperiale, e poi si schiera, non so, contro Erasmo, diciamo, antapologia, poi Alberto Pio in Erasmo, scrive il Democrates, quello sul Democrates secondo, c'è cioè un Democrates primus, si vede convenienza rei militaris con cristiana religione, in cui è un dialogo, no? Allora la Versailles, insomma, Democrate convince questo Leopoldo, che è una nazione tedesca, non il morbo patrio reference del Luteranis eroribus, dice che la guerra non è lecita ai cristiani, invece la è. So, questo è il personaggio, legato poi a questo ambiente, continua a avere queste. Per questo gli pubblicano, penso io, gli pubblicano l'Apologia nel 1550, lui è legato a questo ambiente di antiquari romani, questo Antonio Augustin è uno di questa cerchia degli antiquari romani, non so, curiali, queste figure di umanisti. Filologi, curialisti, filologi tignosi, antiquari, un contesto, un personaggio, anche Marquardo de Susannis è un tipo del genere, dottissimo, filologo, chiusi al nuovo, quelli per cui, cioè, insomma, questa cultura umanistica, questo umanesimo filologico, veramente Sepulveda anticipa i tempi, perché dico non aspetta la svolta post-tridentina, ma questi qui, di questi, quest'ambiente romano di filologi antiquari, per cui le umane littere sono solo dottrina. Ma non saprei come dire, mi viene la parola reazionario, è un modo semplicistico di dire le cose, ma insomma un quadro uniforme di un certo tipo di cultura umanistica dopo tramontato ogni speranza di cambiare la Repubblica Cristiana, di superare le spaccature della crisi. Quindi, contro gli eretici, contro i diversi, contro gli indios, contro gli ebrei, contro, insomma, Sepulveda, ecco, insomma, il quadro, diciamo, contro il riformistico. Sepulveda ha una particolare. Ma anche questa relazione è stata molto ricca, tanto più con le integrazioni di adesso. E io vorrei porre tre domande, in realtà le pongo anche al relatore di stamattina, in qualche misura anche al relatore di stamattina. Cioè non lo so se si possa, un po', forse un po' arbitrariamente, ma sunteggiare diciamo, il clima che viene fuori per la Germania e per l'Italia dalle due relazioni, in qualche misura dicendo che in entrambi i paesi il dibattito è molto più povero di stimoli critici, di capacità critica rispetto alla Spagna. Mi pare, non lo so, lo domando comunque, se ho capito bene, se posso sintetizzare in qualche modo così. Il che potrebbe avere anche delle ragioni, insomma. È chiaro, la Spagna è in prima persona sul fronte della conquista, e quindi se da un lato ne vengono le giustificazioni, dall'altro anche il clima di tormento che questo evento, che aveva tanti risvolti drammatici, non poteva non suscitare in animi e in teste sensibili, sono più vivaci, e non lo so se se ne può trarre appunto questa considerazione, che dove si è più lontani dalla colonizzazione, in un certo senso però la si semplifica anche, non si hanno le stesse drammaticità, e anzi si è più inclini a dare una giustificazione quasi come se si trattasse di un evento normale. Naturalmente questo può essere arbitrario, domando se è questo, si potrebbe anche dire invece che in Italia pesa già un clima di particolare censura, anche, non so, di tipo ecclesiastico, che quindi sono altre ragioni, non so, domando, ecco, se è possibile fare qualche considerazione di questo tipo. Ma questa è una cosa, è una domanda commento. Invece proprio domande pure sono queste. Vorrei chiedere, nel dibattito come viene recepito in Italia e in Germania, se non ho perso qualche battuta data la certa difficoltà per me di seguire tutti i risvolti in tedesco, se non ho perso qualche cosa nel dibattito di stamattina, comunque domando se in Italia poi venga recepito, oltre al tema della legittimità della guerra e della conquista, al tema quindi della legittimità delle giurisdizioni, su cui tornerò fra un momento, se venga anche, se abbia abbastanza eco il tema che modernamente chiamerete il genocidio, se cioè quello che documenta nella brevissima relazione Las Casas, e che è così evidente per noi oggi quando cogliamo una tremenda continuità, non so, fra quello che avveniva, documenta lui, e certi episodi che sentiamo oggi della guerriglia in Guatemala, non so, per dire, se queste cose, proprio l'aspetto genocidio, l'aspetto al di là degli aspetti formali e teorici, la materialità di quello che sta avvenendo sulla pelle della gente, ecco, se questo viene recepito o se invece passa un po' così. È vero che il bilancio del genocidio forse si può fare solo in un'epoca un po' più tarda, perlomeno i dati che dà, per esempio, che riporta per esempio Todorov riguardano la fine del 500, ecco qualche cosa su questo mi parrebbe opportuno sentire. La terza domanda, anzi si scinde un po' in due, ma è una domanda di tipo in qualche modo giuridico, che viene un po' dal mio specialismo, ecco. È possibile precisare qualcosa su questo dibattito sulle giurisdizioni, come avviene in Italia e in Germania, intendo, cioè l'idea della statualità, ecco, che il punto discriminante è la statualità, ecco, qui c'è un diritto, ci sono dei limiti, c'è un qualche embrione di diritti umani, anche se non siamo ben al di fuori ancora del giusnaturalismo, che è quello che sarà il giusnaturalismo del Settecento e dell'età poi a noi contemporanea, però ecco, c'è l'idea che il diritto ha la sua da dire in maniera precisa quando siamo di fronte a stati. Invece, al di là della linea, come dicevano alcuni trattati cinquecenteschi, c'è il libero corso all'uso della forza. Allora, in Italia e in Germania, popoli, stati, chiamiamoli stati, ma insomma non sono stati, sappiamo, che comunque che sono fuori della corsa coloniale, ha qualche riverbero, qualche risvolto diverso il dibattito rispetto alla Francia, alla Spagna, al Portogallo? In particolare il fatto che la statualità in Italia sia molto embrionale, mentre in Francia e in Spagna è in corso di affermazione, embrionale, vabbè, il libro di Prodi, tante altre cose, si sa che cresce anche da noi, però insomma perlomeno lo spazio lo spazio della statualità sono spazi modesti a livello cittadino o al massimo regionale, non c'è lo spazio grande dello Stato, perlomeno questo è un dato sicuro, ecco, influenza in qualche modo, voglio dire, ci si potrebbe aspettare che in Germania e in Italia, proprio per la mancanza dello Stato in un senso forte, ci fosse più capacità di cogliere che anche dove non c'è Stato c'è diritto e ci sono quindi dei limiti, invece sembrerebbe che sia vero il contrario, insomma, per quello che si diceva prima. Ecco, domando se è possibile qualche ampliamento. L'altro aspetto, l'ultimo, sempre giuridico, in realtà lo dovrei, ma non so se ci sarò alla relazione che terrà in Bruglia, gli ho già chiesto in privato qualcosa e magari lo invito a dirlo qui se può ora, se crede, se no lo dirà giovedì. Ecco, le riduzioni gesuitiche in questo contesto della statualità, del ruolo del diritto, che posto hanno? Sono in qualche modo una statualità embrionale, fuori embrionale o anche consistente, fuori di quello che è invece l'impero spagnolo o portoghese che sia, e quindi sono il primo esempio di una statualità in qualche modo messa a disposizione, ecco, del mondo altro, in cui si tenta di, oppure insomma siamo fuori, siamo ancora dentro, ecco, l'impero. Ma dunque, che no, si sente, ora ci parlo dentro, sì, Ma che il dibattito in Italia, per quel che so io, sia più povero che in Spagna, mi sembra innegabile, un dato di fatto. Sarà che io poi conosco meglio quello in Spagna, però in questo che solo recentemente mi sono messa a vederne questa eco italiana. Per quel che ho visto, mi sembra che sia povero in Italia, nella relazione che ho fatto, appunto, voglio dire, io ho cercato in questi autori e poco ho trovato. D'altra parte mi sembra anche naturale che l'Italia poi è marginale anche perché i paesi che sono direttamente interessati alla conquista coloniale, evidentemente, Inghilterra, anche se l'Inghilterra comincia abbastanza tardi, però l'Inghilterra e la Francia hanno ben altri motivi. È chiaro che l'Italia, io penso che, appunto, perché dico che secondo me certamente sono arrivati in questo periplo che hanno fatto le edizioni di Las Casas per l'Europa, secondo me l'Italia, non ho prove per dirlo, altro che indirette, tardi si trova la gente che l'ha letto, però ci saranno arrivate tardi per forza, perché certo i primi paesi dove sono andati sono altri, no? Le prime cose sono fiamminghe. E quindi sì, certo che il dibattito mi sembra ovvio che sia più povero. L'impatto, l'impressione del genocidio, sì, quella c'è, voglio dire, anche degli autori che ho, però è sbiadita, ripetuto. Questo però anche in Spagna, cioè bisogna distinguere la consapevolezza e l'orrore del genocidio dalla consapevolezza del fatto che questi qui si estinguono. Allora, che velocemente gli indios si estinguono è una cosa che è sotto gli occhi di tutti, perché negli anni 40 nelle isole non se n'era già più nessuno, e la necessità di importare gli schiavi neri è da subito, da prima del 20, quindi è sotto gli occhi di tutti il fatto che questi qui si estinguono, e poi la gente dà le spiegazioni più strane, la punizione di Dio perché sono sodomiti, macellai di carne umana, eccetera, oppure i nemici della Spagna, i mali della Spagna, ma anche chiaramente la punizione di Dio sulla Spagna, credevano ad essere tanto ricchi loro, eccetera, ma in realtà quello che hanno trovato è il deserto, che so. Tanti autori italiani, questa espressione deserto, l'India è deserta, che so, nelle poesie di Testi, non so, Tassoni, il deserto dell'India, questo un po' più avanti, ma insomma, ecco, la Spagna che sembra tanto potente, che aveva questo impero, tutte queste cose con l'oro, intanto anche l'oro non c'è più e la popolazione si è estinta, una specie di, secondo i casi, anche alla Spagna gli sta bene, punizione di Dio sulla Spagna, insomma, sulla sparizione degli indiani si possono fare tutti i discorsi che si vogliono, ma la cosa è chiara molto presto. All'inizio del 600 è proprio un luogo comune, è comunque il deserto dell'India, che vuol dire che è deserta di uomini, ma però anche nel 500 già si sapeva come. Però l'orrore del genocidio invece, quello è un'altra cosa. Ora questo è un discorso diverso, voglio dire, poi come si fa a misurare la coscienza dell'orrore del genocidio in una collettività? Secondo me non ci si riesce nemmeno oggi con i mezzi di informazione che abbiamo, voglio dire, le coscienze più alte sentivano l'orrore per il genocidio. Las Casas era uno che lo sentiva a un punto tale che non dormiva, che continuava questa attività incredibile di questo vecchio ormai sordo che però deve lottare perché proprio lui sente l'orrore di questa cosa che si consuma con particolare forza. Poi la forza di questo personaggio è quella, evidentemente non era così, non so se mi sono spiegata, Ma insomma, la parola genocidio è quello che lui dice, destruzione. La parola genocidio non esisteva, è moderna. Ecco, allora, quando lui dice, secondo me la brevissima relazione della destruzione della Indias, ecco, destruzione adesso sarebbe proprio da tradurre con genocidio. Io sarebbe la parola che torna in un testo di Las Casas. Quanti altri, quanto forte sia questa... senso di orrore, io non lo so, ma quanto a dire però che li massacrano, li danno da mangiare ai cani, insomma il repertorio degli orrori ripetuto invece è una cosa frequentissima, quello, so, anche questo Minucci che dicevo, si dice come gli danno in pasta ai cani, addirittura dice chi vuole saperlo legga, come legga Bartolomé de las Casas et leget fortasse non sine lacrimis, poi chiude e però va a dire che però questi sono... Insomma, se non sono tanto sentiti come uomini, non è sentito l'orrore per il genocidio. Io credo che il livello di questa consapevolezza fosse di pochi. Non so, la mia impressione leggendo queste cose è che fosse di pochi. Questo tipo di consapevolezza, non so, intellettuale e morale, però... E sulle giurisdizioni, ma sì, ecco, a me sembrava appunto di che questo discorso sulle legittime giurisdizioni, io credo che Vittoria lo faccia proprio in questo senso, era quello che mi sforzavo di dire, che anche dove non c'è stato ci sono diritti, cioè io sarei sicura che questa, cioè sarei, sì, a me sembra questa la corretta lettura di Vittoria, vado anche un po' più in là perché secondo lui poi sono anche stati, magari lui distingue, ma comunque che ci sono diritti e giurisdizioni lì e che quindi ci deve essere un rapporto, una reciprocità, a me sembra che non ci sia dubbio su questo e che sia così e che invece in Italia non venga recepito in questo modo. Se questo è per scarso senso della statualità in Italia, è possibile? Oppure semplicemente perché la cosa in realtà non interessa, cioè si raccoglie tutto quello che serve per fare polemica antispagnola, ma non c'è un reale interesse per questa cosa, questo credo io. Piuttosto io una cosa che mi chiedo sempre, che, su cui io stessa sono perplessa, è questo. La guerra giusta è quella che ha legittima autorità, quattro requisiti, la legittima autorità, nella, per San Tommaso, Grazianes, se l'intenzio buona, la retta intenzione, il modo giusto e le cause sufficienti, le giuste cause. Allora, la non so, Schmitt in questo suo libro che adesso è tradotto in Italia, ha costituito una delle novità, insomma, editoriali, culturali di questi ultimi mesi, e dove ha un lungo capitolo su Vittoria e poi ci ritorna molte volte, e lui tutto sommato nega a Vittoria questo ruolo di... che ha questo senso moderno dei rapporti fra stati, lui dice siamo ancora dentro all'ambito della Repubblica Cristiana medievale, eccetera. Per conto lui e per conto suo il novatore è Alberico Gentile, che non parla più delle giuste cause ma degli giusti hostes. A dir la verità, Alberico Gentile anche lui chiama bellum, poi abbastanza incoerentemente, quello che gli spagnoli fanno contro gli indios. Se gli indios non è riconoscibile loro nessuna donna, la guerra è fatta fra due, bisogna che ci siano due justi hostes, mica solo quello. Allora, da una parte c'erano gli spagnoli, dall'altra questi indios erano gente completamente barbara. Perché lo chiama bellum? È una contraddizione. Secondo me invece Vittoria lo chiama bellum perché in realtà riconosce una soggettività, una statualità o quantomeno, insomma, li riconosce come soggetti giuridici gli indiani. C'è questo problema sul tema della guerra la guerra giusta che ha la legittima autorità. La legittima autorità deve essere dalle due parti, no? Deve essere dalle due parti. E tutto sommato, ora dico, siccome ho letto recentemente, che secondo me, diversamente da quello che sostiene Carl Schmitt, semmai Vittoria, non che lo dica esplicitamente, ma non è affatto vero che ignori gli justi hostes, considera anche gli indiani justi hostes, cioè quello è un bellum e quindi oltretutto appunto poi ci devono essere, ecco perché poi bisogna, ci sono poi anche i limiti sul quantum licet, però forse sono andata un po' lontano. In ogni modo invece Botero, per esempio, no, infatti Botero non parla di guerra e seguendo Acosta dice onesta forza e ecco, loro nega, lui dove non c'è stato non c'è diritto e infatti le categorie, i barbari, e lui dice no, le categorie di barbari indiani diventano, che in Acosta sono tre, Botero mi pare, se ricordo bene, li fa diventare quattro, comunque lui distingue tra quelli che hanno bisogna che abbiano ci sono quelli che hanno legittimi capi sempre, quelli che li nominano solo in caso di pericolo e di guerra, questi lui li mette fra i barbari barbarissimi, poi ci sono quelli che non ce li hanno mai e sono proprio come bestie, ma comunque ecco, lei mi ha fatto venire in mente, se io ricordo esattamente, che mi pare che Botero dica questo. Quelli che sanno la scrittura, quelli che sanno la cultura, la religione, dei capi politici, un'organizzazione politica non stabile, solo, ecco, se non c'è, allora niente, se non ce l'hanno o nominano dei capi solo in caso di pericolo e di guerra, basta, questi sono di quelli da onesta forza, sono di quelli con cui non c'è niente da fare, non c'è diritto per loro, ecco. Per quello che riguarda il problema appunto che si poneva per le riduzioni del Paraguay, credo che direi che forse germi di novità nel momento in cui ci troviamo, direi che non ce ne siano, nel senso che i gesuiti sono ammessi, sono richiesti, vengono fatti lavorare nel Perù e poi nel Paraguay all'interno delle strutture dell'impero. È pur vero che esplicitamente nel corso anche del Seicento si ritagliano, come dire, delle zone di libertà, vengono esclusi dal patronato reale, ci sono delle forme per cui vengono agevolati, però direi che in sostanza non si diano questi aspetti fino a tutto il Seicento. Forse così brevissimamente, per non togliere ulteriormente spazio alla discussione, potrei forse notare solamente due cose, che se dei germi, degli aspetti di novità vi sono nel senso che queste riduzioni suscitano un dibattito e interno al mondo cattolico e anche poi fuori del mondo cattolico, che consente di assumere questa esperienza come dire, un trampolino per altre idee, questo senz'altro. L'altro punto è che in fondo, perché vi possa essere una esperienza, per così dire, giuridica, di statualità nuova, occorre anche riconoscere, per così dire, qual è il mondo dei soggetti di questa esperienza. Direi che da parte gesuitica non si riconosca mai esplicitamente agli indios la capacità di essere per l'appunto soggetti di questo mondo. Nel migliore dei casi, cioè, comunque si dice che sono uomini civilizzabili che possono partire, possono essere fatti progredire come dei fanciulli, ma in fondo la legittimità di questa esperienza si basa, detto molto rozzamente, su questo punto che occorre che i gesuiti rimangano tra queste popolazioni perché stanno appunto riuscendo a far diventare uomini questi selvaggi. Poi si vedrà, magari loro si possono ritirare. Quindi proprio per questa ragione direi che non si possa individuare in questa esperienza una riflessione di questo genere. Senz'altro si possono individuare invece spunti a partire dalla discussione che questo caso ha suscitato, ma questa è senz'altro un'altra questione. Dankeschön. Frau Forte, ich bedanke mich sehr herzlich für die Informationen über die Rezeption. Verstehen Sie das nicht Deutsch? Ein wenig. Hablo en español porque es más parecido al italiano que al alemán. Entonces, quisiera felicitarle a usted por la información de cómo era la recepción de las ideas, de las casas, y de Sepúlveda y Vitoria en Italia, por lo menos en la segunda mitad del siglo XVI, cuando ya había terminado la conquista. Usted ha demostrado la instrumentalización de estas ideas, y esto era muy interesante. A causa de esta instrumentalización, me pregunto si tal vez no estamos exagerando la controversia entre Sepúlveda y las casas. Porque mirando al fondo las ideas de las casas, él es en contra de la conquista, o mejor dicho, en contra de una evangelización a la fuerza, con armas y con fuerza. Pero no está en contra de la incorporación del Nuevo Mundo al Reino de España. Precisamente después de la controversia, entre comillas, entre él y Sepúlveda, ha escrito unos tratados describiendo los derechos y las causas justas de la dominación española en América Latina, en el reino de las Indias. Al otro lado, el tratado comprobatorio, la parte comprobatoria y las 30 proposiciones muy jurídicas, sí. Y además en este tratado el Tesoro de Perú está argumentando en este sentido. Al mismo tiempo, al otro lado, tal vez estamos no comprendiendo a Sepúlveda, ni yo ni todos. Yo esta mañana también he mencionado a Sepúlveda como una de las personas que está legitimando la conquista. Y también Todorov toma como ejemplo a Sepúlveda. Pero mirando al fondo a la argumentación de Sepúlveda, él está diciendo que los españoles tienen el derecho de incorporar y de civilizar a esta gente también a la fuerza, pero no como causa propia o para solamente conquistar, sino para incorporar a la gente que voluntariamente no quiere incorporarse. Es muy sofisticado, ¿no? Así que tal vez estamos ya en plan de comprender o tenemos que investigar más a fondo los argumentos de Sepúlveda, tomando no solamente este discurso o la apología, sino también todos sus escritos, hasta sus escritos en contra de los infieles, los turcos, y su deseo de garantizar la paz contra los ataques, por ejemplo, de los turcos. Vitoria también está argumentando en una manera muy parecida. Está diciendo, utilizando el derecho natural, que también pertenece a esta gente porque tienen estados, están viviendo en una sociedad, pero al mismo tiempo está subrayando el derecho de los españoles o de todo el mundo de ponerse en contacto, de entrerelacionarse, de comerciar, hasta cristianizar. Y hasta cristianizar a la fuerza si los señores, los caciques o los reyes indios está prohibiendo una evangelización pacífica de los misioneros. Así que se ve que no podemos decir así y así. Tiene que haber una tentación entre el deseo de pacificar en una manera de pacificar pacíficamente y al mismo tiempo de garantizar la incorporación, es decir, en este sentido de una evolución de una hegemonía española universal, porque están creyendo que es una de las más importantes, incorporar esta gente. Solamente quería preguntar si usted ya está de acuerdo que estamos exagerando esta controversia entre las casas y Sepúlveda. Se rispondo in italiano, va bene. Che sia esagerato parlare sempre della controversia Las Casas Sepúlveda come se tutte le questioni fossero lì, sì, certo, questo è un po' un destino così, questo episodio è diventato famoso e paradigmatico, d'altra parte ce l'hanno fatto diventare contemporanei subito dopo, parlandone continuamente e schierandosi per l'uno o per l'altro, e quindi niente, la posterità ha ereditato questa cosa, che qui c'è questo match, ma semplicemente così, perché sì, tutto un insieme di questioni è comune, è una tendenza comune, normale, cercare di sintetizzarle in un momento e trovare i due eroi e fare bianco e nero. Ma insomma, io volentieri sono d'accordo sul fatto che non di per sé non è la contrapposizione Las Casas Sepúlveda a Valladolid nel 1550 un episodio, niente, è diventato un episodio emblematico, ma che di per sé non abbia grande importanza e ci siano tanti altri momenti altrettanto importanti, per carità, questo sì. Io forse non sarei d'accordo su altre cose che il professore, che lei ha detto, e cioè lei ha teso a sfumare le posizioni e a far vedere che poi in fondo tutti e tre questi personaggi, che in qualche modo per gusto di controversismo storiografico gli eruditi, insomma gli studiosi si sono divertiti a far combattere, in realtà hanno aspetti comuni. E beh, certo, voglio dire, degli aspetti comuni ci sono per forza, cioè l'idea che se si scoprono degli infedeli nel nuovo mondo si evangelizzano, e questa, voglio dire, a della gente del Cinquecento è comune. E certo, che per evangelizzare Ecco, però intanto io farei questa distinzione. Secondo me, da certi punti di vista, non ha torto chi dice che Sepúlveda è, in un certo senso, il più moderno. Sepúlveda poi aggiusta il tiro, ma in realtà, come dire, è il più laico dei tre. Io credo che a Sepúlveda, era quello che ho accennato brevemente quando ho detto che poi in fondo nel primo testo c'è molto aggiunta dopo, sì, c'è anche la propagazione del Vangelo e così via, però la forza dell'argomento aristotelico è che gli inferiori debbano, è giusto che i popoli civili, è vero, comandino i barbari, e i barbari quando sono barbari proprio del tutto, bene, siano anche schiavi, è originariamente il suo argomento più forte. E quando lui dice questo, lui pensa agli encomenderos e ai conquistadores spagnoli, cioè lui pensa a un impero coloniale di tipo moderno, come poi fra l'altro quello spagnolo non è diventato, per l'indecisione, perché poi i sovrani non gli hanno mica dato, non hanno mai fatto la perpetuità dell'encomienda. L'encomienda è questa istituzione per cui così gli indios vengono dati all'incomodità perché li faccia lavorare e si serva del loro lavoro servile. L'encomienda non è mai stata resa perpetua e ereditaria per una serie di ragioni, vabbè adesso qui sarebbe troppo lunga, ma insomma la corona divisa fra varie istanze, questo non ha poi mai fatto, le complicazioni fiscali, la bancarotta dello Stato spagnolo, un mucchio di cose hanno impedito che quello che le Indie spagnole diventassero un impero coloniale di tipo più moderno, come altri ci sono stati nei secoli successivi. Però forse questa era l'aspirazione di Sepúlveda, e tutto sommato, nonostante i discorsi che fa, credo che l'evangelizzazione veramente a lui gli importasse pochissimo, anche se ne parla poi moltissimo, perché non bisogna dimenticare che poi un po' di senso politico insomma l'avevano, ecco. Siccome l'aveva anche Las Casas, molto di più di quanto non sembri, vabbè anche questo poi è stato detto molte volte, che sì, l'apostolo eccetera, però ecco, la cosa su cui io sono meno d'accordo è quello che lei dice di Las Casas dopo la controversia, che in fin dei conti all'incorporazione delle Indie alla corona di Castiglia era favorevole. Questo è quello che dicono tutti. Io personalmente ho l'impressione che col passare del tempo, negli ultimi 20 anni della sua vita, sempre più dopo il 55, certo, scrive poi nel 52, questo dico oltre alla brevissima relazione, stampa queste cose nel 52, quelle che girano. L'anno dopo, subito nel 53, scrive un trattato comprobatorio del soberano imperio che los reyes de Castilla e de León tienen sopra Indias, lo dedica a Filippo II, e questo chiaramente perché, siccome aveva pubblicato gli altri l'anno prima, aveva insomma la controversia andata in certo modo, le sue posizioni erano quelle che erano, e lui ribadisce che solo i re di Castiglia hanno questo diritto grazie alla bolla eccetera. Se dopo uno lo legge meglio si vede che la bolla pontificia conferisce ai re cattolici un potere solo in abitu, perché siccome non hanno nel Papa e quindi tantomeno la giurisdizione sugli infedeli, l'avrà, diventerà effettiva quando saranno fatti cristiani, ecco, quindi allora diventerà un potere reale. Cristiani non li si può far diventare con la forza, e non solo non si può obbligarli, questo lo dice da un'altra parte, perché poi in diverse scrive cose diverse, bisogna comporle, non solo non si può obbligarli ad ascoltare, a convertirsi, e non li si può obbligare ad ascoltare i predicatori, questo lo dice anche Vittoria, non si può obbligarli nemmeno a lasciarli predicare. Se uno tira un po' le conclusioni, insomma, e se poi unisce con altre cose che lui ha scritto dopo, in cui sempre più diventa pessimista, perché lui per lungo tempo cosa fa? contro gli eccessi degli encomenderos e degli conquistadores, si appella alla corona e chiede che siano direttamente incorporati alla corona di Spagna. Però poi dopo, dopo 55, gli indios incorporati alla Real Hacienda non andavano proprio meglio di quelli delle encomiendas anche. A quel punto lì lui lo aveva capito benissimo, scriveva queste cose e tutte le ultime cose che scrive in realtà sono su due fronti, contro l'encomienda da una parte e contro e contro i sovrani dall'altra. È lì che scrive questo trattato, che poi è la prima cosa sua che viene stampata, che è una cosa di cui si parla meno, che è l'unica opera di Las Casas in cui non si parla affatto di indiani, che si chiama, ora l'hanno, il titolo con cui gira adesso è De Resa Potestate, ma insomma Erudita Atque Elegans Explicata, viene stampata questa da Gristetter nel 71, prima della brevissima, a Tubinga, da questo, in cui dice tutti i limiti del potere reso, che insomma solo la libera e volontaria elezione, ma non truccata, ma non nominale, fonda il potere. Allora questi, lui è sempre più convinto che non eleggano affatto di stare sotto la Spagna. La mia impressione è che lui dica e non dica, ma veramente che il suo punto d'arrivo, anche se non lo dice, sia che gli spagnoli se ne debbano andare dalle Indie. Questa è la mia persuasione. Se uno cerca la frase dove Las Casas lo dice, non la troverà mai, perché non lo dice. Però che lo pensa, sì, e che cerca attraverso queste opere anche di indurre altra gente a pensarlo, sì. Poi era questo curioso personaggio, un misto di utopismo, utopista, ma anche però di furbo abbastanza, perché se uno pensa come ha navigato fino al 66 e senza mai incappare in guai, con una denuncia all'Inquisizione, con quest'altro così, ha chiuso i suoi giorni senza aver problemi, una bella abilità, perché ecco, io non credo che la differenza sia grande. Per Vittoria sì che credo che sia vero quello che lei dice, però un impero diverso da quello che pensa. Io veramente di Vittoria credo che lui pensi a una, diversamente da quello che dice Schmidt, a una espansione dello spazio europeo, a un impero di tipo nuovo, a una comunità di popoli, insomma, di qua e di là dall'oceano. Questo io sì lo credo che Vittoria lo pensasse, però questo è come lo leggo io, non so. Solo due parole. Prima, io non sapevo che il libro di Schmidt è tradotto in Italia. Sì, da pochi due anni fa, in una tesi a Bonn, nella facoltà di giurisprudenza, la tesi del Carlo Schmidt, è distrutto del tutto. Del tutto. Perché? Carl Schmidt si pone su il suo testimonio principale, è Baltasar d'Ayala, sì, che scrive in un capitolo, se mi ricordo bene, il capitolo secondo o terzo, che gli olandesi non possono fare una guerra giusta, una guerra, perché non sono hostis justi, perché non sono un Stato riconosciuto dalla Spagna. Lo stesso dice, non sta presso Carl Schmidt, lo stesso dice il rifugio William Allen from Inghilterra da due nel 586 o 7, perché Elisabetta di Inghilterra non può fare una guerra contro Spagna perché il Papa decenni fa le ha disposto del suo trono. Lo stesso dice Filippo II nel 95, quando Enrico IV dichiara la guerra ufficialmente alla Spagna. Filippo risponde: tu, il re di Navarra, non ha la possibilità di guerreggiare il re di Spagna, perché il re di Navarra è una parte di Spagna e chi non è re non può fare una guerra. Questa è tutta propaganda. Ma la tesi che per fare guerra si deve si fondere su una causa giusta, anche coi giuristi, fino alla metà del 600 tutti parlano del problema, della tesi, del trattato, del bello giusto. Sta nei trattati, sta nei libri, sta nelle enciclopedie. Ma si deve, anche nella letteratura, che sono biblioteche scritte sulla guerra giusta, si deve chiedere, si deve domandare chi è la funzione di un trattato o di teoria della bella giusta e della guerra giusta. Perché questa letteratura è una letteratura per i teoretici e per i preti, per la Seisbeistoff italiana, per la confessione. Non è una autorità in Europa che dice questa guerra è giusta e questa guerra è ingiusta. I papi nel Medioevo dicevano la mia guerra è giusta e la tua è ingiusta. Ma questi tempi sono passati. Io non mi ricordo che nessun papa nel 500 ha un solo guerra chiamato come giusto o ingiusto. Anche la guerra di Smalcaldi come guerra di religione è un po' altro, ma insomma la guerra giusta è una letteratura per chiarire le categorie, le teorie di decidere in casi confessionali o quasi confessionali. E l'applicazione di questa teoria ciascun Stato fa nella dichiarazione della guerra e nel manifesto della guerra. E in tutti i manifesti sta: noi abbiamo cause giuste, i nemici non hanno nessuna causa giusta, eccetera, eccetera, fino alla fine del 600. E il terzo è che anche ciascun Stato ha necessità, se c'è una guerra, di non solo con i manifesti, ma anche con la storia contemporanea, con la cronica del tempo, e ha qualcun letterato che scrive la guerra per Savoia e la guerra per Mantova e ci sono eccetera eccetera. Allora la discussione moderna sulla letteratura e discussione di guerra giusta, dal mio punto di vista, un po' fornisce cosa sì, mescola le dimensioni del dibattito. Grazie. Sono sicura di avere capito, ma posso parlare adesso. Parlo italiano? No, italiano no. Spagnolo o tedesco? Sì, io spagnolo preferisco, capisco di più. C'è la domanda. Spero che salga bene lo spagnolo, sto in medio fuori di uso un par di settimane. Con respecto al problema della guerra giusta, es evidente que en todas las épocas, incluso en la antigüedad, se preocupa mucho los que declaran una guerra de mostrar por qué razón la guerra es justa. tenemos que leer solamente a Polibio. Ya sabemos, ¿no es cierto?, entre otros, por qué una guerra puede ser justa. Pero acá en el problema de la conquista hispanoamericana, conquista americana por los españoles, juega un papel muy importante la Declaración de Palacios Rubios. Declaración de Palacios Rubios. Esta declaración tiene por objeto no tanto convencer a los indios de la legitimidad de la conquista, sino que convencer más bien a los españoles que participan en ella de que lo que están haciendo es algo justo. Llama la atención justamente que la declaración de Palacio Rubio se leyese en español a los indios que no sabían español. El requerimiento. El requerimiento de Palacio Rubio. En este sentido, no sé si Vitoria hace alguna alusión a ese procedimiento usado por los españoles, no solamente en la conquista, sino que en la captura de esclavos o encomiendas, ¿no es cierto?, para llevarlos a trabajar a los ingenios que tenían en las islas. Rispondo. Rispondo prima a questa domanda. Prima. Alla seconda domanda, perché è più breve e perché in Vitoria al requerimento, che è questo documento con cui si chiede agli, tutti sanno cos'è il requerimento, sì, direttamente non mi pare di, che nemmeno che ne parli, però che ne pensa tutto il male possibile è evidente. Siccome Vitoria dappertutto dice che questa conquista comunque è stata fatta male, non sono stati amonestados nel modo giusto gli indios, bisogna riparlarne, voglio dire, non mi pare che parli del requerimento in particolare, ma è evidente che è contrarissimo. Questo perché lui dice che la convinzione deve essere profonda, che si deve andare senza violenza, quindi non, non c'è un accenno preciso, ma implicitamente è evidente quanto lui è lontano dal poter avere simpatia o considerazione per questo documento. L'altra osservazione, io non sono sicura di poter rispondere perché non sono sicura di avere capito bene. Se ho capito bene, partendo da Schmidt, però poi nell'ultima parte dell'intervento mi sembra che il professore praticamente dicesse, però probabilmente ho capito male, che poi in fondo tutti i discorsi sulla guerra giusta sono eminentemente chiacchiere. Se è questo, no, allora non ho capito. No, voglio dire, il dibattito sulla guerra giusta è comunque, che sia stato sempre importante, abbia avuto una grossa rilevanza, si vede da quanto la gente si è affannata a pubblicare clandestinamente, a rischio della sua pelle, a ripubblicare, a mandare in giro manoscritti, cose sulla giustizia o la giustizia del tale o tale combattente in quel momento, vuol dire che a scopo di propaganda, ma che insomma questi non erano solo discorsi di teologi, intellettuali eccetera, ma c'era poi una ricaduta, un interesse. No, invece quello che lei ha detto, però forse rispondo a proposito perché non ho capito bene l'ultima parte del suo intervento. Invece certamente sulla critica al libro di Schmidt, anche se io mi sento poco competente a discutere un testo di questa mole, di questa rilevanza, indubbia comunque sia, io sono d'accordo con lei. Voi forse troverete buffo, ma questo è una cosa di provincialismo. Da noi in Italia questo libro non era stato tradotto, è stato tradotto adesso, ha coinciso con una serie di uno stato del dibattito culturale su certi temi, tale per cui ha avuto una risonanza, parecchie recensioni, e allora ecco, se ne parla, e che magari dalla Germania può sembrare un ritardo provinciale ridicolo. Comunque questa è la ragione per cui io ho fatto questo riferimento alla lettura che Schmidt dà di Vittoria, che io non condivido e sono d'accordo con lei, però devo dire forse non sono d'accordo del tutto, nel senso che lei va oltre a come la vedo io. Diciamo, è così. Certo, su Baltasar Ayala è come lei dice, secondo me Schmidt più ancora che Ayala punta su Alberico Gentile, veramente dovrei dire Gentili, ma insomma, lui è innovatore, perché il problema è quello di uno ius publicum europeo, di un nomos in cui la guerra, che è ineliminabile e anche necessaria, sia una guerra non discriminante, nel senso che non distrugge il nemico, e questa è la gran trovata. E allora si arriva a questo quando si chiude il discorso sulle giuste cause e si parla invece dei soggetti della guerra, gli giusti host. La guerra è questa cosa che si fa secondo certe forme e fra due controparti, eccetera. Allora, secondo me non è vero che Vittoria sia... Ecco, su questo lei è d'accordo, però ecco, forse lei è andato troppo oltre. È vero che si continua a parlare di giuste cause, ne parla anche Alberico Gentile, io non so come lui non le veda. Alberico Gentile parla anche delle cause, mica solo degli giusti ordini. Però è anche vero che questo dare maggiore importanza allo justus hostis c'è, e poi la faccenda in Alberico Gentile invece sulla cosa specifica di cui lei parlava, c'è invece questa cosa interessante, importantissima, è vero, del riconoscimento del ribelle come belligerante. E beh, Ayala non lo fa perché lui non vuole, ma invece Alberico Gentile, che sostiene i fiamminghi, lo fa perché, però forse non lo fa solo perché sostiene i fiamminghi, che sono giustamente belligeranti, ma apre un problema, che è un problema che abbiamo ancora adesso, che tutto sommato, di cui il riconoscimento o non riconoscimento di uno Stato è una cosa importante. Ecco, voglio dire, lui fa questo discorso, Alberico Gentile lo fa, questo discorso del riconoscimento del ribelle, ecco, a differenza di Ayala. Voglio dire, su questo Schmidt ha ragione a dire che Alberico Gentile fa questo discorso che è importante. Ecco, forse sono stata molto confusa. Ma comunque è anche poco pertinente poi. Sono felice di sentirglielo dire. Io non ero competente per dir questo, mi sono occupata del capitolo su Vittoria, ma sono felice di sentirglielo dire. Voglio dire un'altra cosa, questo così mi piacerebbe tanto sentirlo dire un po' di più anche in Italia, nelle nostre recensioni. Lei accennava alla regia potestate di Las Casas e, se mi ricordo bene, sottolineava l'elemento consensualistico dell'opera, l'insistenza sul consensus populi, di cui il principe deve tenere conto e che costituisce sempre una limitazione della volontà del principe. Ora c'è un altro aspetto del regia potestate che però è forse ancora più evidente e sottolineato retoricamente da Las Casas, che l'insistenza sulla sovranità e l'inalienabilità dei beni della corona. Anzi, Las Casas riprende qui tutta la letteratura giuridica del 400 spagnolo contro le alienazioni di beni della corona, si richiama alle Cortes del regno di Giovanni II e applica questo alla situazione dell'India. Allora mi chiedo, questa esigenza di riaffermare i diritti della corona contro una forma di feudalesimo come il sistema delle encomiende e l'insistenza sul fatto che tutto quello che appartiene alla corona è inalienabile, il re non può alienarle anche se lo fa, il suo atto non ha nessun valore giuridico, che rapporto ha con quest'altro motivo del consenso del popolo? Sono due elementi separati nel regia potestate oppure c'è un rapporto interno fra questi due aspetti del trattato di Las Casas? Ma secondo me è sulla cessione delle giurisdizioni, lui semplicemente pensa all'encomienda e alla vecchia polemica contro l'encomienda. Allora quello sarebbe nella direzione di quel che dice il professor Koenig, contro gli encomenderos per la diretta amministrazione della corona. Io quel che penso è che lui combatta una battaglia su due fronti in quest'ultimo libro. Certo, contro l'encomienda e quindi non sono alienabili le giurisdizioni. Ecco, però poi c'è anche tutto il discorso sui tributi in quella parte lì, che non è nemmeno, appunto perché lui si fa le corte sul costituzionalismo medievale eccetera, e allora, e quello lì non è più contro gli encomenderos, quello è contro la corona, perché anche i tributi in vitis subditis non si possono mettere, e lì lui non pensa, lì lui pensa ai tributi reali, perché la reale azienda tassava terribilmente, e quindi io ho l'impressione che siano che queste siano le ragioni per cui dice ci sono questi tre temi, no? La cessione di giurisdizione, la sovranità fondata sul consenso popolare, i tributi che devono essere accettati dalla popolazione. E quando fai tutte queste tre cose, che cosa ci resta dell'impero indiano? Anche se nel De Regia Potestate lui è appunto, certo, è l'unico libro di Las Casas in cui non si parla affatto degli indiani, chissà, e dà proprio il senso di dove era, di a che punto era ridotto. E poi, ecco, lì ha detto tutto quello che pensava, però senza nominare. E dopo è passato, in effetti ha avuto questa fortuna del tutto indipendente, quel libro lì, del tutto indipendente dalla fortuna di tutte le altre opere di Las Casas. È un caso anche molto buffo, perché è stato pubblicato prima della Brevissima, nel 71, da questo, e poi dopo ricompare in testi giuridici, in miscellanee insieme ad altre cose. L'autore non si, questo Las Casas, non si sa nemmeno che è il protettore degli indios, però lui pensa sempre la stessa cosa anche lì, almeno così la vedo io. Il tema è appassionante, potremmo andare avanti molto a lungo. C'è un intervento di Paolo Prodi, no, appunto è tardi, insomma. No. Cioè, quindi non è parole, non è stancante come la guerra fina. No, e poi anch'io non ho le idee molto chiare, quindi non vorrei contribuire al pomeriggio caldo, ecco, più di tanto. No, mi collegavo un po' a quello che diceva Allegretti e tanti altri per porre solo un problema in modo generico, insomma, ecco. Quello che cambia è proprio il rapporto tra, prima dell'esplodere, diciamo, della letteratura sulla guerra giusta e la guerra ingiusta, e sull'autorità che ha il potere di dichiarare giusto o ingiusto un fatto, insomma. Qui era Repkin che ha posto il problema. Insomma, cioè, il Papa che nel 1569 scomunica e depone Elisabetta è ancora un Papa medievale che dice qual è il tiranno e qual è invece il sovrano legittimo. E che, ecco, quello che cambia proprio in questi anni sono due fatti fondamentali, insomma, ecco, intorno al 70, diciamo così, da una parte è la fine della conquista e quindi diventa un ragionamento storico, come già è stato detto da tanti, insomma, ecco, cioè, si può più ragionare sul genocidio, eccetera, ma come ci ragioniamo adesso sulla piazza Tiananmen, insomma, ecco, per dire, un ragionamento di due anni fa che viene superato poi dalla politica contingente, eccetera. Non ha più un risvolto immediato, insomma. E dall'altra invece, ecco, quello che cambia è l'avanzata del processo di statizzazione, non so come dire, insomma. Cioè, il patronato reale che viene proclamato negli anni 70, se mi dà le date, rappresenta una modifica sostanziale del regime giuridico delle Indie, insomma. Cioè, intorno al 1578, quella che era stata ancora una occupazione, non dico a due, ma certamente concorrenziale, diciamo, tra, lo metto così, forse sbagliata, esagero, ma tra la corona di Spagna incaricata di una certa cosa e la Chiesa come protagonista diretta di un certo tipo di missione, in cui in qualche modo la Spagna era più vicina al braccio secolare di medievale memoria che non la protagonista attiva, invece scompare completamente, cioè col protettorato reale sulla Chiesa dell'America, insomma, ecco, sul fatto che Roma non può mandare, nonostante i suoi numerosi tentativi, nessun legato nelle Americhe, perché l'unica dipendenza della Chiesa americana è dalla corona, insomma, ecco, cioè non c'è più nessun tipo di possibilità di discorso, non dico concorrenziale, ma in qualche modo, insomma, che non sia statale, ecco. Allora, tutto questo secondo me contribuisce, ecco, al panorama che è stato presentato oggi pomeriggio, proprio perché non è più una discussione sul piano giuridico, ma come diceva anche Repkin, diventa una discussione tra le coscienze e un diritto che è solo statuale sostanzialmente, che non ha più una consistenza extra statuale, insomma. Non so se c'entra questo, insomma. No, ma io non mi sembra giusto, non ho niente da rispondere. Posso aggiungere una osservazione a quello che diceva Paolo Prodi? Pensavo, diciamo, confusamente, che le guerre, cioè tu hai seguito il percorso di un dibattito che avviene a un momento preciso, non si sa chi abbia vinto, no? Si assume normalmente che il vincitore sia stato la scasa, perché non è vero, non c'è stata una definizione di vincitore. Questo dibattito scompare e compare poco anche negli echi, lo ritroviamo come comparsa in una discussione che era in una questione, diciamo, di propaganda pro o contro la Spagna, con scarsi echi, quindi un dibattito per noi importante, però senza un vincitore chiaro, con qualche eco legato alle polemiche politiche, ai conflitti politici, ai problemi di propaganda interna dell'Europa. Le guerre, mi sembra però che le guerre in America Latina continuano, a differenza di quello, c'è questa guerra col Cile, leggevo di recente un volume, io non sono uno studioso di America Latina, leggevo in un volume che mi si intitola, mi pare, Etnicidad y Genocidio in America Latina, la storia di questa lunga e faticosa avanzata militare spagnola. Diciamo, normalmente si assume il momento dei conquistadores come momento eroico e definitivo, in realtà la presenza militare, il logoramento è lungo, credo si possa, la guerra contro gli araucani, certo. continua. Ecco, sì, continua, la guerra continua. La guerra continua, le discussioni invece si rarefanno. E il discorso sulla guerra, in questo sono, credo, d'accordo con l'osservazione di Prodi, il discorso sulla guerra si fa difficile perché non può più venire un discorso dalla coscienza. Ricordo un episodio della stampa italiana del tardo Cinquecento, la comparsa di un opuscolo che esce fuori dai controlli della stampa, dove si pone il problema in forma interrogativa perché gli antichi non facessero guerra per motivi di religione. È un tipico modo di porre la questione in un momento in cui la questione non può essere posta in maniera esplicita, no? Lo ricordavo soltanto per dire che questa storia, che in genere viene raccontata come storia della vittoria di un atteggiamento lascasiano umanitario, con la posizione della Scaldi di Sepulveda come una posizione rifiutata dalla coscienza europea, cioè di una differenza di livelli di umanità, in realtà si presta ad letture molto meno confortanti. Ah sì, sì, certo. No, ma solo che quelle sono spedizioni marginali contro barbari, particolarmente barbari, e comunque dal punto di vista ufficiale spagnolo siamo a posto, perché ci sono, non si chiamano mica più conquiste, si chiamano pacificazioni. Non sono mica quelle lì, non sono più conquistas, conquiste non esistono più, quelle lì sono pacificazioni, quelle degli araucani, i cicimechi, solo pacificazioni, formalmente conquiste basta, onesta forza, pacificazioni, guerre basta, è così. Ci sono altri interventi o possiamo riflettere personalmente su questi temi che sono affascinanti, e ringraziare Carla Forti e tutti gli intervenuti. Arrivederci a domani. Grazie. Sì, perché mi sparano le cose da morire per i collegamenti.